Allora succede che io non ne posso ovviamente più perché attendo da millenni di anni questa semideterminata, semibenedetta rendita, nessuno naturalmente gliene frega una mazza, io sono sempre qui ad aspettare come se non la fosse, i miei non frega nulla di me, sono stata messa al mondo così casualmente, giusto per far vedere che sono una coppia che è in grado di mettere qualcuno al mondo, che ha la zoospermia, la megaspermia, sanno fecondare tutta la terra. Naturalmente figlia unica perché poi non gli ha fregata più una mazza nessuno, fratelli, sorelle, fanculo tutto, basta che assieme a me per farlo quello che dovevamo fare di deployment, neanche fossimo in Advance Wars, niente, io ero quella che doveva fare tutto quello che era scritto, tutto quello che è istituzionalizzato, le scuole lì e quelle là, la brulà, così, praticamente sono stata creata esclusivamente per vivere come la normie disagiata di gente che non pensa ad altro che al lavoro, le tasse, le burocrazie, le stronzate varie, senza così, senza avere un briciolo di inner war artistica, che una vita che quantomeno potesse servire qualcosa a se stessa, per quanto il concetto di senso sia un paralogismo e non abbia alcun significato al di fuori del suo stesso contesto. Esiste molto più del divino, in effetti. L'eterno vuoto, l'eterno nulla, la percezione di quel qualcosa che trascende anche il divino stesso, ma questo è un altro cantone di strada che forse attraverseremo. Praticamente io da circa 15 anni che scrivo articolari, mi sono apprezzato, come, non so gli altri come facciano a lungo tempo, perché è veramente una vita insostenibile, non si può morire per 1 euro o 2 euro per ogni articolo X, considerando che si può mandare roba addirittura 10, 20 al giorno, c'è gente che si è svenduta la vita per questi 2 centesimi, per arrotondarli, ma per uccidere, ma non per sfruttata, niente. La sorte mi si è completamente autoinculata in tutto questo tempo, una mia una grande denuncia nei confronti di tutto il mondo del lavoro. Io sono per il paradismo, sono per l'antilavorismo, perché la gente non può sgobbare per 200 ore, o tenere uno addirittura essere lieta di sfondare il proprio tempo, così automatizzate tutto, andate col paese veramente, anche per questo che sono sempre stata anarco-comunista, comunque molto vicina all'autodeterminazione comunitaria della persona, per lo stesso motivo per cui sono antinatalista, che per il nostro compito l'unica risorsa di moralità dovrebbe essere ridurre tutta l'entropia che permea questo universo, purtroppo, perché il darwinismo permea tutto l'universo, dal minuscolo, dal micro al macro, da quello che accade qui su questa terra, così come quello che accade lì fuori, negli universi, nei sistemi cosmici, stellari. Chi è più adatto mangia tutto il resto, quindi non c'è problema, anche chi è più generoso spiazza tutti gli altri. Io continuo a durare al petto, cuore che va in ecstasy, storia a caso, dolori, stile intestino irritabile. È un miracolo addirittura completare una giornata se si sta seduti, perché qualsiasi cosa, caso di discomfort, io non ne posso veramente più. E si aspetta che questo universo ci dia la possibilità di determinarsi autonomamente per qualsiasi cosa, perché anche se collassa tutto, capirai cosa importa. Anche se estinguessimo domani staremmo tutti meglio, lo dico io. E non solo esclusivamente noi, sarebbe bene anche tutto l'anima lame che assieme a noi Homo sapiens si è avvicinato a questa terra. Alla faccia del mio malthusianismo, anche una singola persona su questo pianeta è un crimine, qualsiasi numero di persone superiore a zero è criminoso, tanto qui ci si combatte sempre per le solite 3 cose dall'alba dei tempi, non ne vale comunque la pena. Il mio messaggio è che non ne posso più, io tendo a una rendita passiva, desidero ordinare per via quantomeno una vita che abbia un non questa enorme di fondo, ma una possibilità di esprimersi tramite arte e conoscenza. La conoscenza è l'unica cosa per cui valga la pena vivere, senza mistificazioni assurde, atroci come divinità inventarie, per riuscire a confortarsi in questo, in quell'altro, passatempi teistici vari, ma anche con le forme di pseudo-spiritualità laica che ormai hanno impestato la galassia come la credulonaria beffarda. Con uno non ne possiamo più, neanche quelli che ne possono più, concludo questo audio.